Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Tra ieri e oggi sono stati 2.500 gli immigrati salvati dai militari nell'operazione Mare Nostrum. Sono oltre 40.000 gli stranieri approdati sulle nostre coste dall'inizio dell'anno. Primi interrogatori dopo gli arresti per la vicenda del Mose. Questa mattina è stata la volta del sindaco di Venezia Orsoni. In effetto giorno sentiremo su questo e sul tema delle carceri il ministro Orlando. Sciopero a Roma dei dipendenti del comune contro l'ipotesi di revisione del salario accessorio. Fischi a Marino che attacca i sindacati, non fanno l'interesse dei lavoratori. Il sindaco tra poco sarà con noi. Da uno sciopero in corso ad uno sciopero sospeso, è quello dell'11 giugno dei dipendenti Rai. Lusigrai ha deciso di fermarsi, al momento restano confermate solo CGIL e UIL. Dopo le misure della BCE lo spread scende sotto quota 145, accelera la borsa di Milano, si valuta l'impatto su imprese e famiglie, per le aziende potrebbe arrivare credito per 75 miliardi. Oggi lo speciale sul Sole 24 Ore. 70 anni fa lo sbarco in Normandia, all'inizio della liberazione dell'Europa dal nazismo, queste spiagge sono state la testa di ponte della democrazia, dice il presidente Obama. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, se volete scriverci, effettogiorno@radio24.it, c'è il mio account Twitter, Simone Spezia, potete scriverci via sms al 349-238-6666 e c'è naturalmente anche la nostra pagina Facebook. Parleremo in questa edizione anche del risultato finale di ieri di The Voice, ha vinto Suor Cristina, e parleremo anche degli azzurri in trasferta in Brasile, ne parleremo col nostro inviato, ma prima di tutto una notizia appena battuta dalle agenzie. Sapete che negli ultimi giorni è circolato il nome di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale per la guida della Commissione Europea. Ebbene, ci sono le sue parole: non sono candidata, ho un lavoro assai importante, ho intenzione di finire il mio mandato. Iniziamo però dai temi della corruzione e dalle indagini sul Mose di Venezia. Inizieranno già dalle prossime ore i primi interrogatori delle 35 persone arrestate ieri nell'inchiesta giudiziaria sul Mose che scuote Venezia. 3 anni di indagini hanno portato alla luce un sistema fatto di fondi neri e tangenti che vede coinvolti imprenditori e politici di primo piano come il sindaco di Venezia. E allora abbiamo un problema, come avrete intuito il servizio che sta mandando in onda è quello di ieri. Iniziamo a sentire però a 24 mattino oggi il capo dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, ascoltiamolo. Per quanto mi riguarda, è meglio che aspettiamo una settimana ulteriore e proviamo a fare le nomine migliori. Sì, questo certamente. Perché la squadra deve essere all'altezza, anche se, diciamo, parliamoci chiaro, questo è un posto nel quale ha un senso esserci se riusciamo a fare qualcosa. Io non mi sono dimesso dalla magistratura, il mio posto, diciamo, in Cassazione è sempre disponibile. Che vuol dire questo? Cioè dire o faccio o sono operativo oppure trovatevene un altro? È una cosa che ho detto per scherzo. No, è chiaro. Io sono convintissimo che mi daranno la possibilità di fare, ma è chiaro che io vado a fare una scommessa e vi assicuro, mi sembra di essere ritornato personalmente ai tempi della procura. Io sono entusiasta di tutte le cose che possiamo fare e che già abbiamo cominciato a fare, però voglio poterle fare. Questo è chiaro. Su questo le voglio dire una cosa, sono sicurissimo che me lo faranno fare. Queste dunque le certezze del presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone. Nel frattempo il Consiglio dei Ministri è riunito, ma da quel che si è appreso al momento non si sta discutendo di questi temi, ma si sta discutendo piuttosto del rinvio della TASI. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, magari ne parleremo tra un attimo col Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Nel frattempo vi do una notizia appena battuta dalle agenzie, che Vodafone, tra le società di telecomunicazioni più grandi al mondo, come sapete, rivela che alcuni governi sono in grado di sorvegliare la sua rete, quindi di monitorare le comunicazioni dei suoi clienti, in un vasto rapporto pubblicato oggi che è il primo nel suo genere. Queste le notizie che arrivano appunto per quanto riguarda Vodafone. Prima di tornare alla corruzione, di fare il punto sulle inchieste del Mose, sul Mose, e parlare col ministro Orlando, facciamo un punto invece sull'immigrazione, perché sono state 24 ore molto intense. Se da questo punto di vista ci sono sbarcate 2.500 persone, oltre 40.000 quelle sbarcate dall'inizio dell'anno. Sentiamo. La prima imbarcazione in difficoltà era stata avvistata ieri al largo del canale di Sicilia, a bordo 443 migranti che nel pomeriggio sono stati soccorsi e accompagnati al porto di Augusta. Mentre le persone salvate mettevano piede sulle coste siciliane, altre 16 imbarcazioni si stavano muovendo in quel braccio di mare che divide l'Italia dall'Africa. 123 persone su un gommone, 998 su un altro, 200 su un'imbarcazione. Cresce di ora in ora il numero dei migranti soccorsi nelle ultime 24 ore a sud di Lampedusa. I numeri sono provvisori, ma si parla di più di 2.500 persone. Tra di loro molte donne e 157 minori. Stanno tutti bene, ma non si hanno certezze sulla loro provenienza. La Marina Militare ha fatto sapere che per fronteggiare l'emergenza sono state utilizzate tutte le navi del dispositivo Mare Nostrum, ma a prendere il largo è stata anche la Guardia Costiera di Lampedusa, che stamattina ha soccorso 450 migranti avvistati a 30 miglia dalle coste libiche. Non sono mancati i soccorsi paralleli. 94 persone in difficoltà sono state messe in salvo da una nave mercantile che sta facendo rotta verso il porto di Catania, dove si è già attivato il sistema dei soccorsi. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vedo che già stanno arrivando dei vostri sms indirizzati al sindaco Marino. Parleremo con lui più avanti. Intanto il punto sulle inchieste sul Mose. È durato meno di un'ora nell'aula bunker di Mestre l'interrogatorio di garanzia di Giorgio Orsoni, finito ai domiciliari e sospeso ieri dal prefetto. Il sindaco di Venezia, coinvolto nell'inchiesta sulle tangenti per il Mose, è indagato per illecito finanziamento, un'accusa respinta dal primo cittadino che al GIP ha rilasciato dichiarazioni spontanee e ha fatto sapere il suo legale, l'avvocato Daniele Grasso. Sono state una serie di dichiarazioni molto lucide, tranquille e serene che ha fatto il professor Orsoni, dichiarando che lui non ritiene di sia addebitabile alcun tipo di responsabilità e proponendosi di dimostrarlo attraverso una fase di attività di indagini difensive e di integrazione della documentazione acquisita dalla Procura. Orsoni è il primo dei 35 arrestati ad essere ascoltato dai giudici. Oggi sarà sentito anche l'assessore regionale Renato Chisso, che si trova in carcere a Pisa. Fra gli indagati nell'inchiesta, intanto, ieri è spuntato anche il nome di Altero Matteoli, anche lui ex ministro, come Giancarlo Galan, l'ex governatore del Veneto, oggi deputato di Forza Italia, per il quale la Procura di Venezia ha chiesto l'autorizzazione all'arresto per corruzione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E saluto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Allora, la prima domanda in realtà gliela faccio su questo, poi verremo alla questione delle carceri. Io so che tra l'altro lei non è a Roma, si era immaginato che il Consiglio dei Ministri di oggi potesse dare un primo via libera all'allargamento dei poteri per l'autority anticorruzione. Ci sa dare invece qualche dettaglio in più sui tempi? Ma credo che sia un passaggio imminente. Ora si tratta di... Penso che oggi ci si volesse concentrare particolarmente su un tema di grande rilevanza come quello della Tasi, e credo che il commissario sarà nella pienezza dei poteri al più presto, anche perché diciamo, il tema fondamentale su cui deve lavorare il commissario è l'Expo, le vicende di cronaca di corruzione che di giorno in giorno si inseguono sono oggetto e devono essere oggetto dell'attività della magistratura. Naturalmente. L'altra domanda che le volevo chiedere invece, che volevo fare su questo tema, è il DDL sul falso in bilancio. Si è detto sarebbe arrivato la settimana prossima, insomma una lotta più incisiva complessivamente al tema dei rapporti tra politica, affari e così via. Ci può confermare che la settimana prossima avete intenzione di incardinare questo DDL? Sì, arriverà. Il test è pronto da tempo, però richiamerei un dato, le norme ci sono, poi vanno integrate, le integreremo, ma le norme penali ci sono, si tratta ora di far funzionare pienamente quelle di prevenzione sul fronte amministrativo. Servono più strumenti per alcuni tipi di criminalità organizzata, ma il fatto che la magistratura intervenga in questo modo così significativo significa che i presupposti ci sono e quindi che gli strumenti esistono. Poi, ripeto, si possono e si devono sempre rafforzare, ma il vero elemento su cui riflettere è come dispieghiamo pienamente gli elementi di prevenzione, perché è evidente che quando si arriva all'intervento della magistratura penale ormai il fenomeno si è ampiamente consumato e i danni sono già stati fatti. Questo è il quadro dal lato della corruzione. Le volevo fare anche un paio di domande sulle carceri, perché ieri è arrivata, come i nostri ascoltatori sanno, il Consiglio d'Europa ha fatto passare, per così dire, a pieni voti, no, l'esame dell'Italia, no? Parla di significativi risultati già ottenuti dal punto di vista appunto del sovraffollamento delle carceri. Lei ha detto ieri non dobbiamo sederci sugli allori, cosa c'è ancora da fare? Ma c'è da individuare un rimedio interno, cioè chi vede violato un proprio diritto, e questo ce lo dice la Corte, deve poter non rivolgersi direttamente a Strasburgo, ma avere un giudice in Italia che risponda, diciamo, di questa violazione. Questo è un punto importante sul quale interverremo al più presto. Poi c'è un tema invece di carattere strategico, che è come si riorganizza complessivamente il sistema della pena nel nostro paese. Non si interviene, diciamo così, a spizziche e bocconi, c'è da sviluppare un sistema di pene alternative, dobbiamo incrementare l'attività di lavoro all'interno del carcere e dobbiamo fare anche una grandissima attività, che è quella che stiamo facendo, per consentire il rimpatrio dei detenuti che provengono da altri paesi da un lato e la collocazione in comunità dei detenuti tossicodipendenti, così come la legge già prevede, ma come è spesso difficile a causa anche della difficoltà di individuare dei posti all'interno delle comunità. Abbiamo fatto in queste settimane, facendo le corse, 6 convenzioni con le regioni italiane, andremo avanti su questa strada, perché Strasburgo ci dice, diciamo, che in qualche modo sono state superate le situazioni più insostenibili e intollerabili, ma non ci dice che, insomma, siamo a posto, e soprattutto non ce lo dobbiamo dire noi, al di là di quello che dice Strasburgo. Noi abbiamo un sistema molto costoso, ancora molto costoso, ma che produce dei tassi di recidiva altissima, quindi che non garantisce né la umanità della pena, ma neanche poi fino in fondo la sicurezza dei cittadini. Mi sembra che lei dica, Ministro, soprattutto nella prima parte della sua risposta, il vero svuota carcere è la riforma della giustizia. Sì, il vero svuota carceri è una riforma del sistema della pena che preveda di più il ricorso alle pene alternative, perché qui non si tratta di cancellare delle punizioni, si tratta di articolare il sistema delle pene e quindi dare più opzioni al giudice da utilizzare. E poi c'è ancora un tema che il Parlamento ha iniziato ad affrontare, che in parte si è attenuato anche per un atteggiamento diverso dalla magistratura, che è quello dei detenuti che sono in attesa di un primo giudizio, che sono scesi significativamente nel corso di questi mesi, ma sono ancora molti, e in questo senso si tratta di regolare complessivamente il sistema della custodia cautelare. La ringrazio, grazie al Ministro della Giustizia Andrea Orlando per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e un buon lavoro, e noi passiamo a parlare di scioperi, innanzitutto quello che si sta svolgendo nella capitale. Chiusi uffici, asili e sportelli per il cittadino. Lo sciopero dei dipendenti comunali di Roma ha messo a dura prova i servizi, con pesanti ripercussioni per la viabilità del centro storico della capitale, anche se il temuto caos è stato scongiurato. Le maggiori difficoltà ci sono state nei pressi del corteo, terminato al Campidoglio. Secondo le stime fornite dai sindacati, l'adesione allo sciopero è stata di circa l'80%, con 10.000 persone alla manifestazione, nel corso della quale è stato pesantemente contestato il sindaco Ignazio Marino. Ci aspettiamo che l'amministrazione comunale, in particolare Marino, capisca che questo è lo sciopero dei lavoratori. Marino ribatte alle accuse, dicendo che i sindacati non fanno l'interesse dei lavoratori, che invece essere sereni, avere un salario e avere un nuovo contratto. I dipendenti temono però il taglio del salario accessorio, circa 200 euro in busta paga, e un incremento delle ore lavorative. Ci vogliono aumentare l'orario di lavoro, noi siamo asilo nido, lavoriamo con i bambini molto piccoli, quindi aumentare le ore di lavoro significherebbe dare un servizio scarso rispetto alla qualità che noi vogliamo dare. Allo sciopero hanno preso parte anche i vigili urbani, con la protesta che durerà per l'intera giornata. Saranno però garantiti i servizi minimi. Ora l'attesa è per l'approvazione del bilancio comunale, momento cruciale per evitare ulteriori proteste. Daniele Scopigno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Da uno sciopero che si svolge, che è in corso di svolgimento, uno sciopero che si allontana a quanto pare, come dicevamo nei titoli, Elisabetta Fiorito, quello della Rai, no? Sì, infatti Simone, sciopero sospeso in Rai, il sindacato dei giornalisti della TV pubblica, Lusi Grai ha fermato la sospensione del lavoro prevista per l'11 giugno, la decisione arriva dopo un voto a larghissima maggioranza nelle assemblee tenute nelle ultime 48 ore in tutte le redazioni d'Italia. La giornata di sciopero è stata convocata dai sindacati confederali per quanto riguarda il personale non giornalistico per protestare, ricordiamo, contro i tagli di 150 milioni di euro annunciati dal premier Matteo Renzi. Sindacati che comunque sono spaccati perché CGIL e UIL confermano l'agitazione, si defila la CISL di Raffaele Bonanni. Lusi Grai invece dice di rispettare le altre sigle che confermano lo sciopero, ma rivendica di essere riuscita ad ottenere che si mettesse al centro dell'agenda politica il futuro e lo sviluppo della RAI e del servizio pubblico. Soddisfazione di Vinicio Peluffo, capogruppo in commissione Vigilanza RAI per il Partito Democratico, lo stesso partito del premier. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e sullo sciopero di Roma torneremo più avanti, forse addirittura dopo la viabilità, parlandone con il sindaco Marino. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Tra ieri e oggi 2500 gli immigrati salvati dai militari nell'operazione Mare Nostrum. Primi interrogatori dopo gli arresti per la vicenda del Mose, questa mattina è stata la volta del sindaco di Venezia Orsoni. Lusi Grai ha deciso di sospendere lo sciopero dell'11 giugno per quanto riguarda i dipendenti Rai. Al momento restano confermate solo CGIL e UIL. Dopo le misure della BCE lo spread scende sotto quota 145, accelera la borsa di Milano. Saluto il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, ai nostri microfoni. Grazie per l'invito e buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Allora, messaggi di segno opposto ci sono arrivati da quando abbiamo annunciato che lei sarebbe stato nostro ospite. Ascoltatori che ci scrivono che è forte con i deboli dipendenti a 1000 euro e debole con i forti dirigenti, e ascoltatori invece che ci scrivono da Milano un abbraccio e sostegno al sindaco Marino, coraggioso Don Chisciotte, ci scrive Francesco. Questo è... rispondiamo subito al primo che mi sembra, rispondiamo con i fatti. Allora, coraggioso con i deboli, deboli con i forti, io ho voluto assolutamente inserire nel bilancio del 2014 i salari cosiddetti accessori per mantenere e garantire quei 250 euro in più a persone che hanno un salario medio di 1200 euro, e ieri ho portato al voto alla più grande azienda partecipata del Comune di Roma un atto che riduce del 70%, mi ascolti bene, 70% di riduzione del salario del consiglio di amministrazione, quindi dei top manager. Mi sembra che siano fatti 70% di riduzione e mantenimento. La stiamo perdendo. Sindaco, la stiamo perdendo, comunque abbiamo colto di questo 70%. Che cosa risponde ai sindacati che sono in sciopero oggi invece? No. A quanto pare abbiamo dei problemi coi collegamenti. Oggi le cose insomma stanno andando un po' così. Intanto qualche ascoltatore, Massimo, ci dice Marino forse non passerà la storia come il risolutore, ma di certo è il primo a porre la lente su alcuni mali endemici di questa città. Questo è il punto. Vedremo poi se riusciremo a recuperare il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Nel frattempo saluto il collega del Sole 24 Ore, Moria Longo. Moria, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, con te vogliamo parlare naturalmente delle decisioni della BCE di ieri, posto che oggi abbiamo ancora buoni dati che arrivano dallo spread, la differenza di rendimento tra BTP e Bund a 140 punti è arrivato, la Spagna addirittura sotto la Gran Bretagna a 128 punti, quindi segnali positivi, segnali che evidentemente il mercato, le mosse di Draghi le ha prese bene, però con te vogliamo innanzitutto riflettere su quali possono essere gli effetti pratici di tutto questo, posto che c'è una guida del Sole 24 Ore oggi che vi consigliamo. Nel tuo servizio pare i 75 miliardi che potrebbero affluire verso il sistema delle imprese. Sì, allora la manovra molto complessa che ha fatto ieri la Banca Centrale Europea mira più che a galvanizzare i mercati, il che è un effetto, diciamo, collaterale, secondario, mira cercare di far ripartire l'economia. Una delle due gambe maggiori di questa maxi manovra fatta dalla BCE appunto mira a far ripartire soprattutto il credito alle imprese, soprattutto le piccole e medie imprese dei paesi del sud Europa che hanno sofferto molto. Come lo fa? Lo fa con un prestito a tasso agevolato che la banca centrale in due tranche tra settembre e dicembre erogherà a tutte le banche europee, tra cui anche quelle italiane del sud Europa. Un prestito a tasso agevolatissimo dello 0,25% che le banche però questa volta dovranno per forza, o comunque avranno un vincolo, dovranno destinare all'erogazione di credito. Ricordate tutti che nel 2011 la banca centrale già fece un'erogazione di 1.000 miliardi di dollari alle banche, anche quella a tasso agevolato. Quei soldi servirono per comprare titoli di Stato. Ebbene, sì, questa volta la BCE chiede e impone che i soldi a non posto, vadano ai titoli di Stato ma alle imprese. Ha posto un vincolo preciso sostanzialmente. In Italia potrebbero potenzialmente, sottolineo potenzialmente, entrare fino a 75 miliardi, perché c'è un calcolo preciso fatto proprio dalla Banca Centrale Europea. Il problema è capire se effettivamente le banche poi riusciranno a erogare o erogheranno credito alle imprese. Su questo c'è un grosso punto di domanda, anche sull'articolo che firmavo oggi sul Sole 24 Ore il punto di domanda è altrettanto grosso, perché non basta semplicemente dare soldi alle banche a tasso agevolato, bisogna che le banche poi abbiano la capacità e la possibilità di erogare credito, e questo ha una serie di implicazioni, perché il motivo per cui le banche erogano meno credito non è soltanto che non hanno soldi, anzi la liquidità non è più un problema, era un problema agli anni di Lehman Brothers, oggi sì, non lo è più. Il problema è in parte il capitale, e tant'è vero che molte banche stanno aumentando il capitale, quindi questo problema sì, stanno in parte risolvendo, ma il vero grosso problema per le banche italiane è quello che viene chiamato il costo del rischio, cioè le banche italiane hanno imbarcato talmente tanti crediti deteriorati, sono più di 300 miliardi nelle banche italiane, questo crea una difficoltà di erogazione, proprio perché finché non si stabilizza il trend di insolvenza delle imprese, per le banche diventa complicato erogare credito. Quindi la manovra di Draghi sicuramente è un aiuto, uno stimolo, ma non è affatto sicuro, non è affatto pacifico, e poi questi soldi effettivamente riusciranno a tradursi in credito. Allora, io ti ringrazio Moria, terremo sotto controllo, vi segnalo intanto lo speciale sul Sole 24 Ore dove si parla non solamente di imprese ma anche di mutui, e risaluto il sindaco Marino, che forse col quale forse adesso riusciamo a parlare. Vorrei sapere molto semplicemente che cosa risponde ai dipendenti che sono in sciopero oggi, lo ricordiamo, uno sciopero per un'ipotesi di revisione del salario accessorio sulla quale, se non sbaglio, sindaco, lei ha dato un tempo entro il quale confrontarsi, cioè entro i prossimi 90 giorni dobbiamo chiudere, in sostanza. Ma, insomma, diciamolo con linearità. Il 3 luglio del 2008, sei anni fa, il governo italiano e la Corte dei Conti avevano segnalato al precedente sindaco, a Gianni Alemanno, che i salari, così come erano erogati ai dipendenti del Comune di Roma, che sono tantissimi, sono 25.000 persone, non erano erogati secondo la legge italiana, cioè erano stati inseriti delle voci accessorie che corrispondono a circa una media di 250 euro al mese, senza collegarli a delle prestazioni accessorie. Il precedente sindaco, nel silenzio dei sindacati, ha messo questo documento del governo italiano in un cassetto e non lo ha più tirato fuori per 6 anni. Io ho pensato che invece bisogna rispettare le leggi e soprattutto proteggere i salari delle persone a reddito più basso. Quindi ho, primo, inserito la voce salario accessorio nel bilancio 2014. Secondo, continuato a pagare il salario accessorio anche in questo momento. Le persone che oggi hanno manifestato in piazza del Campidoglio questo mese hanno regolarmente ricevuto salario accessorio. Garantito che l'avrei continuato a pagare, ma mi sono dato un termine. Sediamoci intorno a un tavolo per portarlo all'interno dei confini della legge entro 90 giorni. Ai sindacati 90 giorni sembrano un tempo infinito, a me sembrano il tempo giusto per porre fine alle ansie dei dipendenti. La ringrazio, grazie al sindaco di Roma Ignazio Marino per essere stato con noi. Siamo riusciti a recuperarlo, e adesso ci spostiamo invece a Santa Margherita Ligure, dove si sta svolgendo il convegno onore dei giovani imprenditori di Confindustria. Anna Marino, la nostra inviata, ciao Anna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Al suo debutto al 44esimo convegno di Santa Margherita Ligure dei giovani imprenditori di Confindustria, e come sentite è ancora in corso, Marco Gai, presidente neoeletto e imprenditore di seconda generazione e poi fondatore di Startup, ha lanciato subito un appello per lavorare uniti al presidente del Consiglio Renzi, a cui ha accordato fiducia ma tempo determinato per una svolta buona, ma solo insieme alle imprese, ribadendo il ruolo degli imprenditori di Confindustria e dei sindacati. Sentiamo. Noi giovani imprenditori siamo qui per dire, presidente Renzi, lavoriamo insieme, uniti. Abbiamo responsabilità distinte, ma insieme possiamo arrivare più lontano. Ecco, vede, presidente Renzi, e aggiungo che mi dispiace molto che lei oggi non sia qui con noi. Noi siamo un pezzo di quel giorno nuovo che può iniziare. Per questo non consideri Confindustria una palude, né zanzare gli imprenditori seduti in questa sala. Perché la svolta buona passa tramite le imprese e gli imprenditori. Senza è una sterzata brusca su una strada senza uscita. Vogliono dare l'esempio per primi i giovani imprenditori, un esercito di 13.000 persone, con un avvertimento, sentiamo anche questo. Lo ha detto il presidente Squinzi alla nostra assemblea. E io lo ripeto oggi. Chi corrompe esca dalla nostra associazione. E aggiungo, esca anche chi non accetta che il legittimo profitto, lo sottolineo, il legittimo profitto, sia indissolubilmente legato al territorio che lo genera. Questa è responsabilità. Chiedono anche che lo Stato faccia la sua parte per la crescita, per pulire la fetina penale del PIL, lanciando proposte concrete contro la corruzione e la burocrazia, priorità alla semplificazione prima di tutto del mercato del lavoro. Sentiamo. Allora, abbiamo dei problemi con l'audio, ma insomma la tua cronaca, Anna, mi sembra esaustiva. Noi chiudiamo questa parte parlando del consiglio di amministrazione di Alitalia brevemente con la nostra Alessandra Schepisi, perché insomma ci sarà qualche decisione, per così dire, che riguarda l'offerta di Etihad. Alessandra. Sì, Simone, CD ancora in corso ormai da 2 ore, chiamato a esaminare appunto la proposta arrivata nei giorni scorsi da Etihad con i termini e le condizioni per avviare la fase finale del negoziato, quello che ricordiamo porterà l'ingresso della compagnia degli Emirati Arabi fino al 49% del capitale del vettore italiano, con un investimento che è compreso tra i 500 e i 600 milioni di euro. In realtà non è prevista una decisione nel merito, ma un'informativa ai consiglieri, ma sono ancora su questa operazione. Sono 2 i nodi sul tavolo: il debito della compagnia e gli esuberi. Per quanto riguarda il debito, non è ancora chiara la modalità di gestione. L'ipotesi è quella di cancellarne 1/3 e di convertire in azioni i restanti 2/3. Incertezza anche sugli esuberi: i numeri oscillano tra i 2 e i 3.000. Il ministro del lavoro Poletti nei giorni scorsi aveva stimato 2.004-2.005. Ci sarà una trattativa con i sindacati che potrebbero, qualcuno dice, anche essere convocati in giornata, soprattutto se dal CDA di oggi dovessero arrivare segnali positivi. I sindacati, che però non sono disposti ad accettare licenziamenti, faranno di tutto per gestire gli esuberi con gli ammortizzatori sociali. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, pausa e poi ci ritroviamo per la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Dario Ricci, ci sei? Sì, ci sono, dal Brasile. Ecco, Dario, dici, guarda, facciamo una cosa, dici subito che ora è da te, così ci facciamo un'idea di che occhiaie ci ritroveremo quando inizieranno le partite del Mondiale. Sono 5 ore in meno, quindi sono le 8:35 del mattino, quindi insomma preparate il caffè, io pure, perché col fuso orari particolari. Certo, naturalmente. Ma fuso variabile, perché a seconda della città dove andremo bisognerà riadeguare di volta in volta l'orologio. Quando arriva la nazionale? Quando arriva la nazionale? Oggi, domani, quando arriva? No, nazionale che è già sbarcata. Ah, già sbarcata. A Rio de Janeiro alle 7:08 locali, e anzi, tra l'altro, già prima giornata intensa, perché alle 13:30 locali, quindi le 18:30 italiane, ci sarà la prima conferenza stampa brasiliana di Cesare Prandelli, poi subito dopo allenamento, insomma non si perde tempo, gli azzurri partono col passo spedito, da spettacolo sull'aereo, neanche a dirlo, Mario Balotelli che si è improvvisato anche Stewart con buoni risultati, quindi direi che Siamo partiti col piede giusto, Simone. Ah, va bene, quindi uno stranamente servizievole Balotelli. Senti una cosa, Dario, sì, ci fai. Sì, ci... uomo assist. Ci dai un'idea di tempi, un po' di agenda, per favore? Prima partita e prima partita dell'Italia, quantomeno. Beh, prima partita il 12 giugno, San Paolo, Brasile, Croazia alle 22 italiane, e no, San Paolo che oggi le cronache danno nel caos a causa dello sciopero dei dipendenti della metropolitana, si parla di un ingorgo record di oltre 200 chilometri, quindi diciamo emergono anche quelle tensioni di cui a lungo abbiamo parlato in queste settimane di vigilia del mondiale, Simone. E poi per gli azzurri, appuntamento a Manaus, siamo ai confini dell'Amazzonia, alle ore 24 italiane di sabato 14 giugno, la sfida contro i camani inglesi, che già sarà decisiva per le sorti del nostro mondiale, Simone. Decisamente. Allora, grazie Dario Ricci, naturalmente torneremo a sentirti e a disturbarti in queste ore in vere conde nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Buona giornata. Ti confesso che il collegamento l'ho fatto in pigiama. È anche comprensibile. Grazie al nostro Dario Ricci, e a chi ci chiede se hanno sentito bene, se Dario Ricci non si è sbagliato ed erano magari 20 km di ingorgo. No, erano effettivamente 200 km di ingorgo a San Paolo per lo sciopero dei lavoratori della metro. Qualche agenzia dice addirittura di più, dice si sono sfiorati addirittura i 300 km. Immaginatevi che giornata, messi molto peggio dei romani, pur con lo sciopero dei dipendenti pubblici, il corteo dei dipendenti pubblici di oggi. Noi invece adesso andiamo in Normandia, perché oggi sono celebrati 70 anni del D-Day. La prima foto di questo 6 giugno ritrae una bandiera americana piantata sulla sabbia di Omaha. La luce è quella dell'alba, il mare è calmo, la spiaggia è deserta. All'alba di 70 anni fa, i mezzi da sbarco avevano già raggiunto la costa. Le truppe aerotrasportate erano già state paracadutate. 160.000 uomini arrivarono sulla costa settentrionale francese. Americani, canadesi, francesi, inglesi e polacchi. A sera, i morti furono oltre 10.000. Fu l'effetto sorpresa a giocare un ruolo determinante, perché i tedeschi erano meglio organizzati. Questa mattina il presidente francese è stato il primo a parlare da Caen. Nous éclaire encore. Ce jour-là. Non dimenticheremo mai, dice Hollande al memoriale per i caduti. Poco dopo lo ribadisce a Colville-sur-Mer, dove incontra Obama. Qui riposano i 9.387 soldati americani. Hollande ha ricordato il debito di gratitudine verso gli Stati Uniti. Today we say the same to the people of France. Thank you. Oggi anche noi vi ringraziamo, risponde Obama, parlando di fronte a migliaia di persone, tanti soldati in servizio, qualche veterano che non vuole essere chiamato eroe. Abbiamo solo fatto il nostro lavoro, dicono alla BBC. Oltre le cerimonie ufficiali, però, c'è la politica e la crisi ucraina. Putin, che ieri ha avuto un ruvido incontro con Cameron, vedrà tra poco Angela Merkel. Hollande sta tendendo la mano a Mosca, complice la fornitura di due navi militari, cosa che ha creato frizioni con Washington. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'inchiesta di Daniele Biacchessi. In Italia la corruzione è diventata ormai sistema endemico. Nel suo rapporto 2014 la Commissione europea sostiene che il totale dei costi diretti della corruzione in Italia ammonta a 60 miliardi di euro ogni anno, pari al 4% del nostro PIL. Il dato, derivato da una vecchia stima della Banca Mondiale sull'incidenza della corruzione sul PIL a livello globale, è in realtà riduttivo, perché indica soltanto il probabile ordine di grandezza del puro costo monetario della corruzione, cioè delle risorse che dal bilancio pubblico finiscono in tasche private. Infatti uno studio della Corte dei Conti stima che nel nostro paese le tangenti comportino un costo aggiuntivo del 40% sugli appalti, che ammontano a 100 miliardi di euro l'anno. A queste cifre, già spaventose, si devono aggiungere almeno 170 miliardi di proventi dalle mafie autoctone: Camorra, Sacra Corona Unita, Cosa Nostra, 'Ndrangheta. Solo poche settimane fa

Ed è tutto anche per Effetto Giorno, ci ritroviamo anche noi lunedì. Ringraziamenti Fabio Cantadori in regia, Luca Cremonese in assistenza e in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. I contatti effettogiorno@radio24.it, il mio account Twitter se volete, Simone Spezia, c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Dunque a lunedì alle 13 con Effetto Giorno, invece ci ritroviamo come sempre tra un attimo con GR24.